prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nella puntata di questa settimana della nostra rubrica dedicata alla Caritas siamo con il direttore Don Luca Facco, perché tra pochi giorni, sabato 14, c'è l'annuale assemblea. È un appuntamento importante quest'anno con l'aggiunta della presenza del nuovo vescovo. Sì, è un'occasione annuale di incontro e di confronto fra le Caritas parrocchiali. Quest'anno avremo la presenza di Don Claudio, che ci aiuterà proprio a entrare ancora di più dentro la consapevolezza del valore, della bellezza di essere Caritas nel territorio oggi, in questo tempo. Non dimenticando che lui è stato per anni direttore della sua Caritas diocesana Mantova, quindi credo che l'argomento lo conosca bene. Sì, siamo proprio contenti perché gli abbiamo detto: sentiti libero, insomma, visto la tua esperienza, la tua anche conoscenza e storia, di darci degli stimoli, degli spunti, che tu, anche alla luce proprio della tua esperienza. Veniamo al programma di questa mattinata, che è rivolto ovviamente a tutti gli operatori parrocchiali, vicariali della Caritas. Gli argomenti sono di un certo peso. Sì, rinnovo proprio veramente l'invito alle Caritas parrocchiali di partecipare, ai centri di ascolto vicariali, ai volontari del fondo straordinario. L'occasione è proprio di mettere a fuoco alcuni elementi importanti per il nostro percorso. Innanzitutto dare alcuni strumenti rispetto alla questione dell'accoglienza dei profughi, strumenti di animazione e di sensibilizzazione delle parrocchie, in particolare un libretto proprio costruito per diffondere per diffondere proprio notizie, dati, numeri, esperienze alle parrocchie. Poi l'argomento delle Caritas parrocchiali e infine l'animazione dell'Avvento. Ecco, il tema dei profughi è sempre di strettissima attualità ed è un argomento che ci accompagnerà probabilmente per molto tempo. La Caritas già da tempo ha indicato delle strade che però altri fanno fatica a seguire, penso al mondo delle istituzioni pubbliche. Sì, noi su mandato proprio dei vicari forani abbiamo intrapreso la via del creare occasioni di informazione, di formazione delle comunità cristiane. Questo è il bisogno primario, ecco perché abbiamo costruito questi due strumenti, il libretto e un video proprio girato da un regista padovano, proprio andando a visitare le accoglienze realizzate, in modo da sensibilizzare, educare, coinvolgere proprio le comunità attorno a questo tema. Poi, con la speranza e l'augurio che si riesca anche ad arrivare a proprio forme concrete di accoglienza. Questo appuntamento poi ovviamente si spera, anzi deve avere delle ricadute tramite i vicariati e le parrocchie, quindi spetterà a chi partecipa poi riportare e tradurre in azioni concrete quanto verrà proposto. Sì, sì, noi consegniamo proprio questi strumenti in modo che poi i volontari delle Caritas possano proprio portarle a loro volta all'interno delle loro comunità cristiane. Non deve restare all'interno delle Caritas, ma deve semplicemente essere un materiale da condividere all'interno delle nostre comunità. Tra l'altro, proprio in questi giorni la Chiesa italiana è riunita a Firenze per il convegno ecclesiale nazionale, che si concluderà il giorno prima dell'appuntamento. Anche questo è un segno così provvidenziale e significativo. Sì, è una Chiesa che continuamente si mette in uno stato proprio anche di confronto, di riflessione, di scambio di buone prassi, di condivisione. È stato creato proprio un sito anche di raccolta delle buone prassi che ci sono in ogni diocesi. Nella nostra diocesi in particolare è stata presentata anche l'esperienza del Fondo Straordinario di Solidarietà come proprio umanesimo, come esperienza di umanità, di una Chiesa che desidera proprio annunciare Gesù attraverso proprio segni e gesti umani, e per cui ci sentiamo proprio in profonda sintonia con continuare a porre gesti umani che possono proprio essere di buon annuncio e di lieta notizia. Allora, ricordiamo il programma dettagliato dell'Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali questo sabato dalle 9 a mezzogiorno all'OPSA di Sarmeola. L'accoglienza, l'introduzione alle 9, poi il tema dei profughi e dei richiedenti asilo dalle 9:30 con la presentazione di strumenti per animazione da parte delle comunità. Narrazione e prospettive da parte delle Caritas parrocchiali, poi la presentazione del sussidio dedicato al tempo dell'Avvento. Di questo abbiamo abbiamo parlato ampiamente nella puntata della settimana scorsa con Giorgio Pusceddu. L'intervento del Vescovo Claudio, previsto intorno alle 11.15, e la celebrazione conclusiva alle 11.45. Altri dettagli li ricordiamo come sempre sul sito www.caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.